Buonasera a tutti, benvenuti. Giovedì scorso, Ozium e Negozium, la buona politica. Questa sera la cattiva politica. Lo straniero, l'hospes, che diventa nemico, hostis, con uno slittamento di significato che ormai appare chiaro anche a chi non sa che hospis e hostis hanno la stessa radice, la stessa etimologia. Noi abbiamo selezionato nove testi sulla intolleranza, nove testi contro, tutti tradotti dai giovani studiosi del Centro Studi e la Permanenza del Classico della nostra università. Iniziamo col prologo di Omero, contro i plebei, Tersite, l'archetipo della bruttezza. Seguono contro i culti dionisiaci, contro la religione ebraica, contro il cristianesimo, contro il paganesimo, contro le donne, contro gli stranieri, contro l'avversario politico. Infine l'epilogo, un testo platonico sull'intolleranza, sull'infondata divisione tra noi da una parte e tutti gli altri dall'altra, cioè i barbari. Ad aggiornare ed arricchire questa serie, questa galleria, ci penserà il professor Umberto Eco, il relatore di questa sera. Di Umberto Eco voi mi capirete, io non dirò nulla. Io dico solo grazie, caro professore, per essere qui, per questa relazione, per essere tornato alle nostre serate e soprattutto grazie che continui col tuo impegno, il tuo magistero presso la nostra università. I testi sono affidati alle interpretazioni di due tra i massimi protagonisti del nostro teatro. Elisabetta Pozzi, a cui dobbiamo essere particolarmente grati perché è arrivata oggi da Siracusa, ha sospeso l'Orestea, si è fatta sostituire per essere qui, e Marco Bagliani, del quale è ben noto, oltre che alla bravura, anche la sua cifra politica. A loro due il nostro grazie. Due avvisi. Uno, ecco, i libretti che trovate, i copioni, io credo che il furto del libro sia ammesso, anzi sacrosanto. Però, ecco, se continuiamo di questo passo, se nessuno riporta il suo testo, non arriviamo alla fine, nonostante le 7.000 copie stampate. E poi un'altra nota un po' più prosaica. Noi abbiamo dovuto ridurre di 230 posti, 230 gli inviti, perché qui nel liceo di fianco, nel liceo Galvani contiguo, sono state disattivate due uscite di sicurezza per i lavori del liceo classico. Quest'altra volta dovremo ridurne di altrettanto tutta questa parte per ragioni di sicurezza. Così recita il verbale dei Vigili del Fuoco. Cercate di capire e di capirci. Buona serata. Da Omero, Iliade, libro secondo. Gli Achei sono stanchi di guerra e vogliono tornare in patria. Odisseo li convince a fermarsi, ma nell'assemblea prende la parola Tersite. E gli altri Achei sedevano ormai costretti tutti sui seggi. Solo Tersite ancora gracchiava, smisurato oratore, che molte parole sapeva in cuor suo ma senza misura, vane e strane ad ogni ordine per litigare con i re. Egli era l'uomo più brutto venuto alle mura di Ilio, era sghembo e zoppo da un piede. Aveva le spalle gobbe piegate sul petto e di sopra un cranio appuntito e rada peluria spuntava. Egli era nemico giurato di Achille e di Odisseo. Attaccava briga con loro, ma allora al glorioso Agamennone diceva offese, gridando con stridula voce, e davvero gli Achei lo odiavano terribilmente e provavano sdegno in cuor loro, ma lui, con la voce spiegata, attaccava Agamennone. Atride! Cos'hai da lagnarti? Cos'è che ora vuoi? Hai piene di bronzo le tende e molte sono le donne che tieni nei tuoi attendamenti prescelte. Siamo noi Achei che a te le doniamo per primo appena si prende una rocca. E ancora desideri oro portato da uno dei cavalieri troiani, da Ilio, a riscatto del figlio che io ho catturato e condotto o qualche altro Acheo? O vuoi qualche giovane donna per unirti con lei nelle ombre, nell'amore tutta tua, da tenerti tu solo? Ma no, non sta bene che un comandante trascini tra i mali noi, figli d'Achei. Voi, mollaccioni, brutte vergogne, Achee, non Achei, a casa, sì. Con le nostre navi torniamo e lasciamolo qui a Troia a smaltirsi i suoi premi, in modo che veda se forse anche noi gli eravamo d'aiuto. Diceva così e attaccava Agamennone, pastore di genti Tersite, ma subito accanto gli andò Odisseo, glorioso, e lo guardò storto, con aspre parole lo offese. Tersite, lingua sfrenata, ma bravo a parlare alle piazze, fermati e non voler più litigare coi re. Io dico che non ce n'è un altro più infame di te fra tutti coloro che vennero insieme agli Atridi alle mura di Ilio. Perciò non avere i re sulla bocca, non fare discorsi, non ti permettere offese e lascia stare il ritorno. Ma questo io ti dico, e questo sarà veramente: se ancora una volta ti trovo come ora a fare lo sciocco, la testa d'Odisseo non gli resterà sulle spalle e mai più di me si dirà che sono padre a Telemaco se io non ti prendo, se io non ti strappo le vesti, mantello, chitone che coprono i tuoi genitali e ti rispedisco in lacrime fino alle navi veloci, scacciandoti dall'assemblea a colpi che fanno vergogna. Parlava così e con lo scettro il dorso e le spalle gli bastonò e lui si piegò su se stesso, gli caddero lacrime dense. Un livido sanguinolento si alzò dal suo dorso sotto lo scettro d'oro e si mise a sedere e tremò, dolorante, e con sguardo da sciocco deterse il suo pianto. Anni fa a New York sono capitato con un tassista dal nome di difficile decifrazione e mi ha chiarito che era pakistano. Mi ha chiesto da dove venivo, gli ho detto dell'Italia, mi ha chiesto quanti siamo ed è stato colpito che fossimo così pochi e che la nostra lingua non fosse l'inglese. Infine mi ha chiesto quali sono i nostri nemici. Al mio prego ha chiarito pazientemente che voleva sapere con quali popoli fossimo da secoli in guerra per rivendicazioni territoriali, odi etnici, continue violazioni di confine e così via. Gli ho detto che non siamo in guerra con nessuno. Pazientemente mi ha spiegato che voleva sapere quali sono i nostri avversari storici, quelli che loro ammazzano noi e noi ammazziamo loro. Gli ho ripetuto che non ne abbiamo, che l'ultima guerra l'abbiamo fatta 50 e passi anni fa e tra l'altro iniziandola con un nemico e finendola con un altro. Non era soddisfatto. Com'è possibile che ci sia un popolo che non ha nemici? Sono sceso lasciandogli $2 di mancia per compensarlo del nostro indolente pacifismo. Poi mi è venuto in mente che cosa avrei dovuto rispondergli, e cioè che non è vero che gli italiani non hanno nemici. Non hanno nemici esterni e in ogni caso non sono mai in grado di mettersi d'accordo per stabilire quali siano, perché sono continuamente in guerra tra di loro. Pisa contro Livorno, Guelfi contro Ghibellini, nordisti contro sudisti, fascisti contro partigiani, mafia contro Stato, governo contro magistratura. È peccato che all'epoca non ci fosse ancora stata la caduta del secondo governo Prodi, altrimenti avrei potuto spiegargli meglio cosa significa perdere una guerra per colpa del fuoco amico. Riflettendo meglio su quell'episodio, mi sono convinto che una delle disgrazie del nostro paese negli ultimi 60 anni è stata proprio di non avere avuto dei veri nemici. L'unità d'Italia si è fatta grazie alla presenza dell'austriaco, o come voleva Berchet, dell'irto increscioso alemanno. Mussolini ha potuto godere del consenso popolare incitandoci a vendicarci della vittoria mutilata, delle umiliazioni subite ad Ogali, ad Adua e delle demoplutocrazie giudaiche che ci infliggevano le inique sanzioni. Si veda cosa è accaduto agli Stati Uniti quando è scomparso l'impero del male e il grande nemico sovietico si è dissolto. Rischiavano il tracollo della loro identità sino a che Bin Laden, memore dei benefici ricevuti quando veniva aiutato contro l'Unione Sovietica, ha portato agli Stati Uniti la sua mano misericordiosa e ha fornito a Bush l'occasione di creare nuovi nemici rinsaldando il sentimento di identità nazionale e il suo potere. Avere un nemico è importante non solo per definire la nostra identità, ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori e mostrare nell'affrontarlo il valore nostro. Pertanto, quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo. Si veda la generosa flessibilità con cui i nazischin di Verona eleggevano nemico chiunque non appartenesse al loro gruppo, pur di riconoscersi come gruppo. Ed ecco che questa sera non ci interessa tanto il fenomeno quasi naturale di individuazione di un nemico che ci minaccia, quanto il processo di produzione e demonizzazione del nemico. Nelle Catilinarie Cicerone non avrebbe avuto bisogno di disegnare un'immagine del nemico perché del complotto di Catilina aveva le prove, ma lo costruisce quando, nella seconda orazione, dipinge ai senatori l'immagine degli amici di Catilina, riverberando sul principale accusato il loro alone di perversità morale. Individui che bivaccano nei conviti, che stanno allacciati a donne svergognate, che illanguidiscono nel vino, pieni di cibo, incoronati di serti, cosparsi di unguenti, debilitati dalla copula, vomitano parole che bisogna far strage dei cittadini onesti e incendiare le città. Li avete sotto gli occhi, senza un capello fuori posto, imberbi o con la barba ben tagliata, vestiti di tuniche sino alla caviglia, con le maniche lunghe, avvolti da veli e non dalla toga. Questi fanciulli così graziosi e delicati hanno imparato non solo ad amare, a essere amati, a danzare e cantare, ma anche a brandire pugnali e somministrare veleni. Il moralismo di Cicerone sarà poi lo stesso di Agostino, che, come sentirete, bollerà i pagani in quanto, a differenza dei cristiani, frequentano circhi, teatri, anfiteatri e celebrano feste orgiastiche. I nemici sono diversi da noi e si comportano secondo costumi che non sono i nostri. Un diverso per eccellenza è lo straniero. Già nei bassorilievi romani i barbari appaiono come barbuti e camusi, e lo stesso denominativo di barbari, come è noto, allude a un difetto di linguaggio e quindi di pensiero. Tuttavia, sin dall'inizio vengono costruiti come nemici non tanto i diversi che ci minacciano direttamente, come sarebbe il caso dei barbari, bensì coloro che qualcuno interessa rappresentare come minacciosi anche se non ci minacciano direttamente, così che non tanto la loro minacciosità ne faccia risultare la diversità, ma la loro diversità diventi segno di minacciosità. Si vedono tra i testi qui presentati i proclami contro i riti dionisiaci di origine straniera a Roma e quanto Tacito dirà, lo sentirete, degli ebrei: profano è per loro tutto quello che è sacro per noi, e quanto è per noi impuro per loro è lecito. E viene in mente il ripudio anglosassone per i mangiatori di rane francesi e quello tedesco per gli italiani che abusano d'aglio. Gli ebrei sono strani perché si astengono dalla carne di maiale, non mettono lievito nel pane, oziano il settimo giorno, si sposano solo tra loro, si circoncidano, si badi cosa dice Tacito, non perché sia una norma igienica o religiosa, ma per marcare la loro diversità. Seppelliscono i morti e non venerano i Cesari. Una volta dimostrato quanto siano diversi alcuni costumi reali, circoncisione o riposo del sabato, si può sottolineare ulteriormente la diversità inserendo nel ritratto costumi leggendari: consacrano l'effigie di un asino, spregiano i genitori, i figli, i fratelli, la patria e gli dèi. Plinio, giovane, non trova per i cristiani significativi capi d'accusa, visto che deve ammettere che essi non si impegnano a commettere delitti, bensì a fare solo azioni virtuose. Li manda tuttavia a morte perché non sacrificano all'imperatore. E questa ostinazione nel rifiutare una cosa così ovvia e naturale stabilisce la loro diversità. Nuova forma di nemico sarà poi, con lo svilupparsi dei contatti tra i popoli, non solo colui che sta fuori e che esibisce la sua stranezza da lontano, ma quello che sta tra noi, oggi diremmo l'immigrato extracomunitario, che in qualche modo si comporta in modo diverso, parla male la nostra lingua e che nella satira di Giovenale, come vedrete, il furbo, greculo, truffaldino, sfrontato, libidinoso, capace di stendere sul letto la nonna di un amico. Straniero tra tutti e per il colore diverso è ovviamente il negro. Mi limiterò alla voce negro dell'Encyclopedia Britannica, prima edizione americana, 1798. Nella carnagione dei negri incontriamo diverse sfumature, ma tutti allo stesso modo si differenziano dagli altri uomini in tutte le fattezze dei loro volti. Guance tonde, zigomi alti, una fronte leggermente elevata, naso corto, largo e schiacciato, labbra spesse, orecchie piccole, bruttezza e irregolarità di forma caratterizzano il loro aspetto esteriore. Le donne negre hanno lombi molto cadenti e glutei molto grossi che conferiscono loro la forma di una sella. I vizi più noti sembrano essere il destino di questa razza infelice. Si dice che ozio, tradimento, vendetta, crudeltà, impudenza, furto, menzogna, turpiloquio, dissolutezza, meschinità e intemperanza abbiano estinto i principi della legge naturale e abbiano messo a tacere i rimproveri della coscienza. Sono estranei a qualunque sentimento di compassione e costituiscono un terribile esempio della corruzione dell'uomo quando lasciato a se stesso. Il negro è brutto. Il nemico deve essere brutto perché, se si identifica il buono con il bello, calocagrafia, uno dei caratteri fondamentali della bellezza è sempre stato quello che il Medioevo chiamerà poi integritas, e cioè l'avere tutto ciò che è richiesto per essere un rappresentante medio della specie. Per cui tra gli umani saranno brutti quelli che mancano di un arto, di un occhio, hanno una statura inferiore alla media o un colore disumano. Ecco allora che dal gigante monocolo Polifemo al nano Mime abbiamo immediatamente il modello di identificazione del nemico. Prisco di Panion, nel V secolo d.C., descrive Attila come basso di statura, con un largo torace, una testa grande, gli occhi piccoli, la barba sottile brizzolata, il naso piatto e, tratto fondamentale, la carnagione scura. Ma è curioso come il volto di Attila si assimila alla fisionomia del diavolo quando lo vede più di 5 secoli dopo Rodolfo il Glabro, di modesta statura, collo esile, volto smunto, occhi nerissimi, fronte increspata da rughe, naso schiacciato, bocca sporgente, labbra gonfie, mento stretto affilato, barba caprina, orecchie irsute a punta, capelli ritti e scarmigliati, dentatura canina, cranio allungato, petto sporgente, dorso a gobba. Nell'incontro con una civiltà ancora ignota, sono privi di integritas i bizantini, visti da Liutprando di Cremona, inviato nel 968 dall'operatore Ottone I a Bisanzio. Fui davanti a Niceforo, un essere mostruoso, un pigmeo dalla testa enorme che pare una talpa per la piccolezza degli occhi, è imbruttito da una barba corta, larga, spessa e brizzolata, al collo lungo un dito ed è un vero etiope per il colore, con cui non vorresti imbatterti nel cuore della notte, di ventre obeso, secco di natiche, dalle cosce troppo lunghe per la sua piccola struttura, dalle gambe corte, i piedi piatti, e un vestito da contadino troppo invecchiato, fetido e scolorito a forza di indossarlo. Fetido, il nemico sempre puzza. E tale Berrion, all'inizio della guerra mondiale, nel 1915, scriveva una Polichésie de la race allemande, dove dimostrava che il tedesco medio produce più materia fecale del francese e di odore più sgradevole. Se il bizantino puzzava, puzzava il saraceno nell'Evagatorium in Terre Sancte di Felix Fabri, XV secolo. I saraceni emettono un certo orribile lezzo, per cui si danno a continua abluzioni di diverse sorti. E siccome noi non puzziamo, ad essi non importa che ci bagniamo insieme ad essi. Ma non sono altrettanto indulgenti con gli ebrei, che puzzano ancora di più. Così i puzzolenti saraceni sono lieti di trovarsi in compagnia di chi come noi non puzza. Puzzavano gli austriaci di Giusti, ricordate, vostra eccellenza che mi sta in cagnesco, entro ti trovo un pieno di soldati, di quei soldati settentrionali come sarebbero boemi e croati messi qui nella vigna a far da pali. Mi tenni indietro, che piovuto in mezzo di quella maramaglia, io non lo nego, d'aver provato un senso di ribrezzo che lei non prova in grazia dell'impiego. Sentivo un'afa, un abito di lezzo, scusi eccellenza, mi parean di sego in quella bella casa del Signore, fin le candele dell'altar maggiore. Non può che puzzare lo zingaro, visto che si nutre di carogne, come insegna Lombroso nell'Uomo delinquente, capitolo primo, e puzza in Dalla Russia con amore la nemica di James Bond, Rosa Klebb, non solo russa e sovietica, ma lesbica per giunta. Tatiana aprì la porta e mentre rimaneva in piedi e fissava lo sguardo in quello della donna che sedeva dietro un tavolo rotondo sotto la luce di una lampada centrale, si ricordò improvvisamente dove aveva sentito quell'odore. Era l'odore della metropolitana di Mosca in una sera calda, profumo dozzinale che dissimulava gli effluvi animaleschi. In Russia la gente si inzuppa letteralmente di profumo, sia che abbia fatto, sia che non abbia fatto il bagno, ma soprattutto quando non l'ha fatto. La porta della stanza da letto s'aprì e quella Klebb apparve sulla soglia. Indossava una camicia da notte trasparente di crêpe de Chine arancione. Da un'apertura della camicia sporgeva un ginocchio rugoso simile a una noce di cocco giallastro spinto in avanti in una posa classica da manichino. Rosa Klebb si era tolta gli occhiali, si era impiastricciata il viso con uno spesso strato di belletto e di rossetto. Poi batté leggermente sul divano accanto a sé. Spegni la luce centrale, mia cara. L'interruttore vicino alla porta. Poi vieni a sederti accanto a me. Dobbiamo conoscerci meglio. Mostruoso e puzzolente sarà, almeno dalle origini del cristianesimo, l'ebreo, visto che il suo modello è l'anticristo, l'antinemico. Il nemico non solo nostro, ma di Dio. Da Azzo de Montier-Ander, sulla nascita ai tempi dell'anticristo, decimo secolo, l'anticristo nascerà dal popolo dei giudei, dall'unione di un padre e di una madre come tutti gli uomini, non come si dice da una vergine. All'inizio del suo concepimento il diavolo entrerà nell'utero materno, per virtù del diavolo sarà nutrito nel ventre della madre e la potenza del diavolo sarà sempre con lui. Ma nel testamento siriaco di nostro Signore del V secolo si diceva questi sono i suoi tratti. La testa è come fiamma ardente, l'occhio destro iniettato di sangue, il sinistro di un verde felino, ha due pupille, le sue palpebre sono bianche, il labbro inferiore grande, il femore destro è debole, i piedi grossi, il pollice schiacciato, è allungato, guardateci in giro, forse è tra voi. Il Degarde di Binger nel Liber Scivie avrà due occhi di fuoco, orecchie come quelle di un asino, naso e bocca come un leone, perché invierà agli uomini gli atti di follia del più delittuoso tra i fuochi e le voci più vergognose della contraddizione, facendo loro rinnegare Dio, spandendo nei loro sensi il fetore più orribile, lacerando le istituzioni della Chiesa con la più feroce delle cupidigie, sogghignando con un rictus enorme e mostrando orribili denti di ferro. Sotto le spoglie dell'Anticristo, durante la Riforma e la Controriforma, vengono da un lato rappresentati il Papa dai protestanti e dall'altro Lutero da parte dei cattolici. Se l'Anticristo viene dal popolo dei giudei, il suo modello non potrà che riverberarsi sull'immagine dell'ebreo, sia che si tratti di antisemitismo popolare, di antisemitismo teologico o di antisemitismo borghese otto-novecentesco. Cominciamo come il volto, è di un brano del 1788 dell'abbé Grégoire che si proponeva di integrare gli ebrei alla rivoluzione e se sur la régénération physique, morale e politique des juifs, quindi era molto ben disposto verso di loro. In genere hanno il volto livido, il naso adunco, gli occhi infossati, il mento sporgente, i muscoli costrittori della bocca fortemente pronunciati. Inoltre gli ebrei sono soggetti a malattie che indicano corruzione del sangue, come una volta la lebbra e oggi lo scorbuto che le affine, le scrofole, i flussi di sangue. Si dice che gli ebrei esalino sempre un cattivo odore. Altri attribuiscono questi effetti all'uso frequente di verdure dall'odore penetrante come cipolle ed aglio. Altri ancora dicono che la carne d'oca, che essi amano molto, a renderli lividi e atrabiliari, dato che questo cibo abbonda di zuccheri grossolani e vischiosi. Ma quello che peggio è l'aspetto fonetico dell'ebreo e non vi dico ancora chi ha scritto questo brano. Nell'aspetto esterno dell'ebreo si trova qualcosa di straniero che ripugna sopra ogni altra cosa questa nazionalità. Ci è impossibile immaginare che un personaggio dell'antichità o dei tempi moderni, eroe amoroso, sia rappresentato in teatro da un ebreo senza sentirci involontariamente colpiti da quanto vi è di sconveniente, anzi di ridicolo, in una rappresentazione del genere. Ma la cosa che più ci ripugna è in particolare l'accento che caratterizza il parlare degli ebrei. Le nostre orecchie sono particolarmente urtate dai suoni acuti, sibilanti, stridenti di questo idioma. Gli ebrei usano le parole e la costruzione della frase in modo contrario allo spirito della nostra lingua nazionale. Ascoltandoli, noi senza volerlo prestiamo più attenzione al loro modo di parlare che a quello che dicono. Questo punto è della maggiore importanza per spiegare l'impressione prodotta soprattutto dalle opere musicali degli ebrei. Ascoltando l'ebreo che parla, noi siamo, nostro malgrado, urtati dal fatto di trovare il discorso suo privo di ogni espressione veramente umana. È naturale che la congenita aridità dell'indole ebraica, che ci è tanto antipatica, trovi la sua massima espressione nel canto, che è la più vivace e la più autentica manifestazione del sentimento individuale. All'ebreo si potrebbe riconoscere attitudine artistica per qualsiasi altra arte, piuttosto che per quella del canto, che sembra essergli negata dalla natura stessa. L'autore Richard Wagner, dell'ebraismo nella musica, 1850. Per cui troveremo invece molto più garbato questo signore che dice: nei giovani l'abbigliamento deve essere posto al servizio dell'educazione. Se oggi la perfezione corporea non fosse respinta in seconda linea dalla nostra moda trascurata, non sarebbe possibile che centinaia di migliaia di ragazze fossero sedotte da ripugnanti bastardi ebrei dalle gambe storte. Adolf Hitler, Mein Kampf, capitolo 2. Dal volto ai costumi, ed ecco il nemico ebreo che ammazza i bambini e si abbevera del loro sangue. Esso appare prestissimo, per esempio nei racconti di Canterbury, di Chaucer, dove si racconta di un fanciullo molto simile al santo Simonino di Trento, che mentre passa per il quartiere ebraico cantando «O alma redemptoris mater», viene rapito, gli si sega la gola e viene buttato dentro un pozzo. Ma l'ebreo che ammazza i bambini e si abbevera del loro sangue ha una genealogia molto complessa, perché lo stesso modello preesisteva nella costruzione del nemico interno al cristianesimo, l'eretico. Basti solo questo testo di Michele Psello sull'attività dei demoni, XI secolo. A sera, quando si accendono i lumi e da noi si celebra la passione, conducono in una certa casa le fanciulle che hanno introdotto i loro riti segreti, spengono le lampade perché non vogliono la luce a testimone delle sconcezze che avverranno e sfogano la propria dissolutezza su chi gli capita, fossero pure sorella o figlia. Sono infatti convinti di fare così cosa grata ai demoni se violano le leggi divine che vietano il connubio con chi ha lo stesso sangue. Terminato il rito se ne tornano a casa e attendono che siano passati 9 mesi. Giunto il momento in cui dovrebbero nascere gli empi figli di un empio seme, si congregano di nuovo nello stesso luogo. 3 giorni dopo il parto strappano i miseri figli alle loro madre, incidono con una lama affilata alle loro tenere membra, raccolgono in coppe il sangue sgorgato, ne bruciano i nuovi nati quando ancora respirano e li gettano su un rogo. Poi mescolano nelle coppe sangue e cenere, ottenendo un orribile intruglio con cui insudiciano cibi e bevande di nascosto come chi versi veleno nell'idromele. Tale è la loro comunione. Talora il nemico è percepito come diverso e brutto perché è di classe inferiore. Abbiamo appena visto il Tersite di Omero, che è socialmente inferiore ad Agamennone, ad Achille, è invidioso di loro. Ora, tra il Tersite di Omero e il Franti di De Amicis c'è poca differenza, sono brutti entrambi. Ulisse percuota sangue il primo e la società manderà Franti all'ergastolo. E ad accanto una faccia tosta e trista, uno che si chiama Franti, che fu già espulso da un'altra sezione. Uno solo poteva ridere mentre De Rossi diceva dei funerali del re, e Franti rise. Io detesto costui, è malvagio. Quando viene padre nella scuola a fare una partaccia al figliolo, egli ne gode. Quando uno piange, gli ride. Trema davanti a Garrone, picchia il muratorino perché è piccolo, tormenta Crossi perché ha il braccio morto, schernisce Precossi che tutti rispettano, burla perfino Robetti, quello della seconda, che cammina con le stampelle per aver salvato un bambino. Provoca tutti i più deboli di lui e quando fa pugni si inferocisce e tira a far male. C'è qualcosa che mette ribrezzo su quella fronte bassa, in quegli occhi torbidi che tien quasi nascosti sotto la visiera del suo berrettino di tela cerata. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite con qualcheduno, si porta a scuola degli spilloni per punzecchiare i vicini, si strappa i bottoni della giacchetta e ne strappa gli altri e li gioca, a cartella, quaderni, libri, tutto sgualcito, stracciato, sporco, la riga dentellata, la penna mangiata, le unghie rose, i vestiti pieni di frittelli e di strappi che si fa nelle risse. Il maestro finge qualche volta di non vedere le sue birbonate ed egli fa peggio. Provò a pigliarlo con le buone ed egli se ne fece beffa. Gli disse delle parole terribili ed egli si coprì il viso con le mani come se piangesse e rideva. Tra i portatori di bruttezza dovuta alla loro posizione sociale stanno ovviamente il delinquente nato di Lombroso e la prostituta. Ma con la prostituta entriamo in un altro universo, quello dell'inimicizia o del razzismo sessuale. Per il maschio che governa e scrive, o scrivendo governa, sin dall'inizio è stata raffigurata come nemica la donna. Non lasciamoci ingannare dalle donne angelicate, anzi, proprio perché la letteratura maggiore è dominata da creature belle e dolcissime, il mondo della satira, che è poi quello dell'immaginario popolare, demonizza continuamente la femmina, sin dall'antichità. Per l'antichità mi limito a Marziale. Tu sei vissuta sotto 300 consoli, vetustille, ti restano 3 capelli e 4 denti, il petto di una cicala, le gambe il colore di una formica, porti in giro una fronte che ha più pieghe della tua stola e seni simili a tele di ragno. La tua vista è pari a quella delle civette di mattina e puzzi come i caproni, il tuo sedere è come quello di un'anatra rinsecchita. In questa tua vagina può penetrare solo la fiaccola funebre. Sentite questa, poi vi dirò dopo chi è l'autore. La femmina è animale imperfetto, appassionato da 1000 passioni spiacevoli, abominevoli pure ricordarsene, nonché a ragionarne. Né un altro animale meno netto di lei, non il porco, qualora è più nel loto coinvolto, aggiugna la bruttezza di loro. E se fosse alcuno questo negar volesse, riguardisi i parti loro, ricerchinsi i luoghi segreti dovesse vergognandosene, nascondono gli orribili strumenti li quali a tor via i loro umori superflui adoperano. E se così poteva pensare Giovanni Boccaccio, nel Corbaccio, laico e scostumato, immaginatevi cosa doveva pensare e scrivere il moralista per ribadire il principio paolino che, se fosse mai possibile senza bruciare, meglio sarebbe non conoscere mai i piaceri della carne. E Odone di Cluny, nel X secolo, ricordava: la bellezza del corpo è tutta nella pelle. In effetti, se gli uomini vedessero ciò che sta sotto la pelle, dotati come le linci di Beozia della penetrazione visiva interna, la sola vista delle donne gli riuscirebbe nauseabonda. Questa grazia femminile non è che suburra sangue, umore, fiele. Considerate quello che si nasconde nelle narici, nella gola, nel ventre, dappertutto sporcizie. E noi che ripugniamo dal toccare anche solo con la punta delle dita il vomito, il letame, come possiamo dunque desiderare di stringere nelle nostre braccia un semplice sacco di escrementi? Dalla misoginia che diremmo normale, si passa alla costruzione della strega, capolavoro della civiltà moderna. Certamente la strega era nota anche all'antichità classica, mi limiterò a ricordare Orazio: io stesso vidi Canidia, cinta di una veste nera, nudi piedi e le chiome sparse, ululare con sagana maggiore, il pallore le aveva rese entrambe di orribile aspetto. O le streghe dell'asino d'oro di Apuleio. Ma nell'antichità, come nel Medioevo, si parlava di streghe e stregoni più che altro in riferimento a credenze popolari, come fatti di possessione tutto sommato episodici. Roma, ai tempi di Orazio, non si sentiva minacciata dalle streghe, e nel Medioevo si pensava ancora che in fondo la stregoneria fosse fenomeno di autosuggestione, cioè che la strega fosse colei che si credeva una strega, come recitava nel IX secolo il Canon Episcopi. Certe donne depravate, rivoltesi a Satana e sviatesi dalle sue illusioni e seduzioni, credono e affermano di cavalcare nottetempo certe bestie in compagnia di una moltitudine di nonne al seguito di Diana. I sacerdoti devono costantemente predicare al popolo di Dio che queste cose sono tutte false e che tali fantasie non sono evocate nelle menti dei fedeli dallo spirito divino, bensì da quello malvagio. Satana, infatti, si trasforma in angelo della luce e prende possesso della mente di queste donnette e le domina a causa della loro scarsa fede e incredulità. Invece, all'alba del mondo moderno, che la strega inizia a congregarsi in sette, a celebrare i suoi sabba, a volare, a tramutarsi in animale, a diventare nemico sociale, tanto da meritare i processi inquisitori e il rogo. Non è questa sera che affronteremo il problema complesso della sindrome da stregoneria, se si tratti di ricerca di capro espiatorio nel corso di profonde crisi sociali, di influenze dello sciamanismo siberiano, della permanenza di archetipi eterni. Quello che ci interessa in questa sede è ancora il modello ricorrente della creazione di un nemico, modello che è analogo a quello della costruzione dell'eretico e dell'ebreo. E non basta che uomini di scienza come Gerolamo Cardano, nel De Rerum Varietate, quindi nel 500, levassero le loro obiezioni di buon senso. Diceva Cardano: sono donnette di misera condizione che vivacchiano nelle valli cibandosi di castagne e di erbe, perciò sono macilente, deformi, di colore terreo, con gli occhi fuori dal capo, dallo sguardo mostrano di avere un temperamento melanconico e bilioso. Sono taciturne, svagate, si differenziano poco da quelli che sono posseduti dal demonio. Sono così ferme nelle loro opinioni che, a badare soltanto ai discorsi che fanno, si crederebbero vere le cose che raccontano con tale convinzione, cose che mai sono accadute né mai accadranno. Le nuove ondate di persecuzione iniziano invece con i lebbrosi. Carlo Ginzburg, nella sua Storia notturna, ricorda che nel 1321 essi furono bruciati in tutta la Francia perché avevano cercato di uccidere tutta la popolazione avvelenando acque, fontane e pozzi. Le donne lebbrose che avevano confessato il crimine, spontaneamente o per effetto di tortura, venivano bruciate. A meno che non fossero gravide, se lo erano, dovevano essere tenute segregate fino al parto e allo svezzamento dei figli e poi bruciate. Non è difficile identificare qui le radici di ogni processo agli untori, ma l'altro aspetto della persecuzione citata da Ginzburg è che automaticamente gli untori lebbrosi venissero associati agli ebrei e ai saraceni. Vari cronisti riferivano voci secondo le quali gli ebrei erano complici dei lebbrosi e per questo molti di loro venivano bruciati insieme a loro. Uno dei capi dei lebbrosi avrebbe confessato di essere stato corrotto con denaro da un ebreo, che gli aveva consegnato del veleno fatto di sangue umano, urina, tre erbe, ostia consacrata, messo in sacchetti provvisti di pesi per fargli andare più facilmente a fondo nelle fontane. Ma chi si era rivolto agli ebrei era stato il re di Granada, e un'altra fonte aggiungeva al complotto anche il sultano di Babilonia. Così in un solo colpo venivano fusi tre tipi di nemico tradizionale, il lebroso, l'ebreo e il saraceno. Il richiamo al quarto nemico, l'eretico, era dato dal particolare che i lebrosi convocati in questi riti dovevano sputare sull'ostia e calpestare la croce. Più tardi rituali del genere saranno predicati delle streghe. Se nel XIV secolo erano apparsi i primi manuali per il processo inquisitorio mirante agli eretici, come la Practica Heretice Pravitatis di Bernardo Gui o il Directorium Inquisitorum di Nicolaus Emmerich, è nel XV secolo, badate, mentre a Firenze Marsilio Ficino traduce Platone per ordine di Cosimo de' Medici, e mentre secondo una nota parodia goliardica gli esseri umani si apprestavano a cantare che sollievo, siamo fuori dal Medioevo, è tra il 1435 e il 1437 che appare il Formicarius di Nider, dove per la prima volta si parla delle varie pratiche stregonesche in senso moderno. Nella bolla Summis Desiderantes Affectibus, Innocenzo VIII, nel 1484 scriverà: è da poco giunto alle nostre orecchie, con nostra grande sofferenza, che in alcune regioni della Germania persone d'ambo i sessi, dimentiche della propria salute e allontanatesi dalla fede cattolica, non esitano a darsi carnalmente ai diavoli incubi e succubi, a far morire e deperire la progenie di donne, animali, dei frutti della terra, per mezzo di incantesimi, fatture, scongiure e altre odiosissime pratiche di magia. Volendo impedire, come ci impone il nostro incarico, con opportuni rimedi, che il flagello dell'eretica pravità diffonda i suoi veleni a danno degli innocenti, sia permesso agli inquisitori summenzionati, Sprenger e Kramer, di esercitare l'ufficio inquisitoriale su quelle terre. E infatti, ispirandosi anche al Formicarius, nel 1486, Sprenger e Kramer pubblicheranno l'infame Malleus Maleficarum, il martello delle streghe. Come si costruisce una strega ce lo dice, un esempio tra mille, gli atti del processo inquisitorio contro Antonia della parrocchia di San Jorios, diocesi di Ginevra, del 1477. L'accusata, abbandonato il marito e la famiglia, raggiunse con Massé il luogo detto L'Asperrois, presso il torrente, dove si teneva una sinagoga di eretici, e vi trovò uomini e donne in gran numero, i quali colà si corteggiavano, danzavano e ballavano all'indietro. Le mostrò allora un demone chiamato Robinet, che aveva l'aspetto di un negro, dicendo: ecco il nostro maestro. L'imputata gli domandò come doveva comportarsi, e il detto Massele rispose: rinegherai Dio, tuo creatore, la fede cattolica e quella ruffiana della Vergine Maria, e accetterai come signore maestro questo demonio chiamato Robinet, e farai a suo modo qualunque cosa lui vorrà. Udite queste parole, l'accusato incominciò a rattristarsi, si rifiutò di primo acchito, ma alla fine rinnegò il Dio suo creatore, dicendo: io rinnego il Dio mio creatore, la fede cattolica e la Santa Croce, ed accetto te, demonio Robinet, per mio signore maestro. E rese omaggio al demone baciandogli il piede. Quindi, in dispregio di Dio, buttò per terra, calpestò col piede sinistro e ruppe una croce di legno. Si fece trasportare su un bastone della lunghezza di un piede e mezzo per recarsi alle sinagoghe. Essa doveva ungerlo con l'unguento contenuto in una pisside, porselo fra le cosce dicendo: va dalla parte del diavolo. Immediatamente veniva trasportato in aria con movimento veloce. Confessa ancora che nella sinagoga mangiarono pane e carni, bevvero vino e nuovamente danzarono. Quindi, essendosi il detto demone loro maestro tramutato da uomo in un cane nero, lo onorarono e riverivorono baciandolo sul di dietro. Infine il demone, spento il fuoco che colà splendeva di fiamme verdi illuminando la sinagoga, esclamò a gran voce: Meclet, Meclet! E a quel grido giacquero bestialmente gli uomini con le donne e lei con il suddetto Massé Garin. Questa deposizione, con i vari particolari dello sputo sulla croce e del bacio sull'ano, ricorda quasi letteralmente le deposizioni del processo dei Templari, che era avvenuto un secolo e mezzo prima. Quello che colpisce è che non solo gli inquisitori di questo processo quattrocentesco sono guidati nel porre le loro domande e contestazioni da quello che hanno letto in processi precedenti, ma che in tutti questi casi la vittima, al termine di un interrogatorio che si ritiene alquanto serrato, si convince di quanto le è stato imputato. Nei processi di stregoneria non solo si costruisce un'immagine del nemico e non solo la vittima alla fine confessa anche quello che non ha fatto, ma nel confessarlo si autoconvince di averlo fatto. Ricorderete che un procedimento analogo è raccontato in Buio a mezzogiorno di Kessler e che in ogni caso anche nei processi staliniani prima si costruiva l'immagine del nemico e poi si persuadeva la vittima a riconoscersi in quella immagine. La costruzione del nemico induce a diventare tale anche chi avrebbe aspirato a un riconoscimento benevolo. Teatro e narrativa ci mostrano esempi di brutto natroccolo che, disprezzato dai suoi simili, si adegua all'immagine che essi hanno di lui. Come esempio tipico citerei Riccardo III. Ma io, che non sono tagliato per gli ameni spassi né per corteggiare un amoroso specchio, io che sono privato di questa bella simmetria, frustrato di sembianza dalla natura che mi dispaia, deforme, incompiuto, anzitempo inviato in questo spirante mondo appena plasmato a mezzo e per questo così monco e contraffatto che i cani latrano di me quando io zoppico accanto loro, ebbene io non trovo altro diletto per passare il tempo se non di guatare l'ombra mia nel sole e intesser variazioni della mia deformità. E così, da che io non posso farli innamorato, sono risoluto a dimostrarmi scellerato. Pare che del nemico non si possa fare a meno. La figura del nemico non può essere abolita dai processi di civilizzazione. Il bisogno è connaturato anche all'uomo mite e amico della pace. Semplicemente si sposta l'immagine del nemico da un oggetto umano a una forza naturale o sociale che in qualche modo ci minaccia e che deve essere vinta, sia essa lo sfruttamento capitalistico, l'inquinamento ambientale, la fame nel terzo mondo. Ma seppure questi sono casi virtuosi, ricordiamo Brecht, anche l'odio per l'ingiustizia stravolge la faccia. L'etica è dunque impotente di fronte al bisogno ancestrale di avere nemici? Direi che l'istanza etica sopravviene non quando si finge che non ci siano nemici, bensì quando si cerca di capirli, di mettersi nei loro panni. Non c'è in Eschilo un astio verso i persiani, la cui tragedia gli vive tra loro e dal loro punto di vista. Cesare tratta i Galli con molto rispetto, al massimo gli fa apparire un poco piagnoni ogni volta che si arrendono. Tacito ammira i Germani, trovandoli anzi di bella complessione, limitandosi marginalmente a lamentare la loro sporcizia e la loro renitenza ai lavori faticosi perché non sopportano caldo e sete. Cercare di capire l'altro significa distruggere nel cliché, senza negarne l'alterità. Ma siamo realisti. Queste forme di comprensione del nemico sono proprio dei poeti, dei santi o dei traditori. Le nostre pulsioni più profonde sono di ben altro ordine. Nel 1968 era stato pubblicato in America un rapporto da Iron Mountain sulla possibilità e desiderabilità della pace. Di anonimo, qualcuno lo aveva attribuito a Galbraith. Chiaramente si trattava di un pamphlet contro la guerra, o almeno di un lamento pessimistico sulla sua inevitabilità. Ma poiché per fare la guerra ci vuole un nemico con cui guerreggiare, la ineluttabilità della guerra corrisponde alla ineluttabilità dell'individuazione e della costruzione del nemico. Così con estrema serietà in questo pamphlet si osservava che la riconversione dell'intera società americana a una situazione di pace sarebbe stata disastrosa perché solo la guerra costituisce il fondamento dello sviluppo armonico delle società umane. Lo spreco organizzato della guerra costituisce una valvola che regola il buon andamento della società, solo la guerra risolve il problema delle scorte, è un volano. La guerra permette a una comunità di riconoscersi come nazione, senza il contrattare della guerra un governo non potrebbe neppure stabilire la sfera della propria legittimità, solo la guerra assicura l'equilibrio tra le classi e permette di collocare e sfruttare gli elementi antisociali. La pace produce instabilità e delinquenza giovanile, La guerra incanala nel modo più giusto tutte le forze turbolente, dando loro uno status. L'esercito è l'ultima speranza dei diseredati e dei disadattati. Solo il sistema di guerra, col suo potere di vita e di morte, dispone la società a pagare un prezzo di sangue anche per altre istituzioni che non ne dipendono, come lo sviluppo dell'automobilismo. Ecologicamente la guerra provvede una valvola di sfogo per le vite in eccedenza, e se sino al XIX secolo vi morivano solo i membri più validi del corpo sociale, i guerrieri, mentre si salvavano gli inetti, i sistemi attuali hanno permesso di superare anche questo problema con i bombardamenti sui centri civili. Il bombardamento limita l'aumento della popolazione, meglio che l'infanticidio rituale, la castità religiosa, la mutilazione forzata o l'uso estensivo della pena di morte. Infine, è la guerra che consente lo sviluppo di un'arte veramente umanistica in cui predominano le situazioni di conflitto. Se è così, la costruzione del nemico deve essere intensiva e costante. Ce ne offre un modello veramente esemplare George Orwell in 1984. Un istante appresso, un fastidioso stridore come di un ingranaggio di qualche diabolica macchina non ben lubrificata si fece sentire con uno scoppio dal grande teleschermo in fondo alla sala. Era un rumore che faceva drizzare i capelli in capo. L'odio era cominciato. Come al solito, la faccia di Emmanuel Goldstein, nemico del popolo, era apparsa sullo schermo. Si udì qualche fischio qua e là fra i presenti. La donnetta dei capelli color sabbia diede in una sorta di gemito in cui erano mescolati paura e disgusto. Goldstein era il rinnegato, l'apostata che una volta, tempo prima, era postato tra i dirigenti del partito, ma si era poi dato a organizzare attività controrivoluzionarie, era stato condannato a morte e misteriosamente evaso e scomparso. Egli era stato il supremo traditore, il primo che avesse osato profanare la purezza del partito. Il diaframma di Winston ebbe una stretta. Non poteva mai vedere la faccia di Goldstein senza provare un misto di emozioni che gli dava una specie di malessere. Era una magra faccia da ebreo, con una grossa aureola di capelli bianchi e crespi e una piccola barbetta da capra. Una faccia da persona seria, ma che pure si poteva leggere qualche cosa di moralmente vile e spregevole, mista a una sorta di stupidità senile concentrata in quel suo naso lungo affilato, in cima al quale stava appoggiato un paio d'occhiali. Sembrava la faccia di una pecora, e anche la voce aveva un qualche carattere pecorino. Goldstein stava sferrando il suo solito velenoso attacco alle dottrine del partito, domandava l'immediata conclusione della pace con l'Eurasia, chiedeva la libertà di parola, libertà di stampa, libertà di riunione, libertà di pensiero, e strillava quasi in un accesso di isterismo che la rivoluzione era stata tradita. Prima ancora che fossero passati una trentina di secondi d'odio, incontrollabili manifestazioni di rabbia ruppero fuori da una metà del pubblico nella sala. Durante il secondo minuto l'odio arrivò sino al delirio. La gente si levava e si rimetteva a sedere con gran rimestio e urlava quanto più poteva nello sforzo di coprire il belato di quella voce maledicente. La donnetta dai capelli color sabbia era diventata rossa come un peperone e apriva e chiudeva la bocca come un pesce tratto fuor d'acqua. La bruna dietro Winston aveva cominciato a strillare «Porco! Porco! Porco!» e tutto un tratto ferrò un grosso dizionario di neolingue e lo scaraventò sullo schermo. Winston si accorse che anche lui stava strillando come tutti gli altri e batteva furiosamente i tacchi contro il piolo della sedia. La cosa più terribile dei due minuti d'odio non consisteva tanto nel fatto che bisognava prendervi parte, al contrario, proprio nel fatto che non si poteva trovar modo di evitare di unirsi al coro delle esecrazioni. Una fastidiosa estasi mista di paure e di istinti vendicativi, un folle desiderio di uccidere, di torturare, di rompere facce a colpi di martello percorreva l'intero gruppo degli astanti come una sorta di corrente elettrica, tramutando ognuno, anche contro la sua stessa volontà, in un paranoico urlante e sghignazzante. Non è necessario raggiungere i deliri di 1984 per riconoscerci come esseri che hanno bisogno di un nemico. Le recenti elezioni ci hanno mostrato quanto può la paura dei nuovi flussi migratori. Allargando a un'intera etnia le caratteristiche di alcuni suoi membri che vivono in una situazione di marginalizzazione, si sta oggi costruendo in Italia l'immagine del nemico rumeno, capro espiatorio ideale per una società che, travolta in un processo di trasformazione anche etnica, non riesce più a riconoscersi. La visione più pessimistica in proposito, e quella con la quale vi lascio in modo che possiate dormire tranquilli stasera, è quella di Sartre in Wicklow. Da un lato possiamo riconoscere noi stessi solo in presenza di un altro, ma questo è Levinas, e su questo si reggono le regole di convivenza e mansuetudine. Ma più volentieri troviamo quest'altro insopportabile perché in qualche misura non è noi. Così che riducendolo a nemico ci costruiamo il nostro inferno in terra. Quando Sartre chiude tre defunti che in vita non si conoscevano in una camera d'albergo, uno di essi capisce la tremenda verità. Guardate che cosa semplice, insipida come una rapa. Non c'è tortura fisica, eppure siamo all'inferno. E nessun altro deve arrivare qui, nessuno, fino alla fine, noi tre soli, insieme. Manca il boia. Hanno realizzato un'economia di personale, ecco tutto, il boia e ciascuno di noi per gli altri due. Da Livio, Storie di Roma dalla sua fondazione. È il 186 avanti Cristo. Nell'Italia meridionale va diffondendosi il culto di Dioniso. I riti estranei e sospetti divengono oggetto di denunce. Il Senato di Roma interviene con durezza in difesa dei valori tradizionali. Il Senato affida ai consoli l'inchiesta straordinaria sui baccanali e sui riti notturni. Dispone che siano prese misure per cui la vicenda non comprometta i due primi accusatori, Ebuzio e Fecennia. Fa attirare altri accusatori con la promessa di ricompense. Rintracciare i sacerdoti di quei riti, uomini o donne che siano, non solo a Roma, ma anche in tutti i mercati e i luoghi di riunione, in modo che siano in mano ai consoli. Fa decretare nella città di Roma, inviando editti uguali in tutta l'Italia, che nessuno già iniziato ai riti bacchici possa partecipare a una riunione rituale o compiere atti legati a quel culto. Decide di colpire, anzitutto, quanti si erano riuniti ed avevano prestato giuramento di commettere stupri o delitti. Così si pronunciò il Senato. I consoli ordinarono agli edili curuli di rintracciare tutti i sacerdoti di quel culto, di metterli in libera custodia e mantenerli a disposizione per l'inchiesta. Gli edili della plebe si dovevano invece accertare che non si tenessero riti in segreto. Ai triumviri capitali fu ordinato di collocare delle guardie per la città, di sorvegliare che non si verificassero riunioni notturne. Dal decreto del Senato sui baccanali. I consoli Quinto Marzio, figlio di Lucio, Spurio Postumio, figlio di Lucio, hanno interpellato il Senato il 7 ottobre presso il Tempio di Bellona. Hanno preso parte alla redazione del Senato Consulto in qualità di segretari Marco Claudio, figlio di Marco, Lucio Valerio, figlio di Publio, Quinto Minucio, figlio di Caio. Riguardo ai baccanali, sono state approvate le seguenti disposizioni per gli alleati. Nessuno di loro partecipi a un baccanale. Coloro che eventualmente affermino di dover prendere parte a un baccanale si rechino a Roma presso il pretore urbano. Ascoltate le loro parole, sulla questione deliberi il Senato, purché alla seduta siano presenti non meno di 100 senatori. Nessun cittadino romano o di nome latino o alleato si avvicini alle baccanti, a meno che in precedenza non si sia recato dal pretore urbano e al riguardo si sia espresso il Senato, purché alla seduta siano presenti non meno di 100 senatori. Questo il parere del Senato. Nessuna persona di sesso maschile ricopra il ruolo di sacerdote. Nessuno, uomo o donna, sia capo del collegio sacerdotale. Nessuno abbia denaro in comune con loro. Nessuno attribuisca una carica a persona di sesso maschile né femminile. Nessuno d'ora in poi stringa vincoli reciproci con voti, promesse, obblighi, scambi di protezione. Nessuno celebri riti in segreto. Nessuno celebri riti né in pubblico né in privato né fuori del territorio cittadino, a meno che si sia recato dal pretore urbano e a riguardo sia espresso il Senato, purché alla seduta siano presenti non meno di 100 senatori. Questo il parere del Senato. Nessuno celebri riti a cui assistano più di 5 persone tra uomini e donne in totale, in particolare non più di 2 uomini e 3 donne, a meno che non si siano pronunciati il pretore urbano e il Senato, come è scritto sopra. Tacito. Storie. Tacito, primo fra gli storici romani, dedica una digressione alle origini e alle caratteristiche del popolo ebraico. Si tratta forse dell'attacco più violento contro gli ebrei in tutta la letteratura classica. Esso dimostra le radici lontane dell'antisemitismo moderno, del quale anticipa diversi stereotipi. Mosè, per assicurarsi in avvenire la fedeltà del popolo, introdusse riti nuovi e contrari a quelli di tutti gli altri uomini. Profano è per loro tutto ciò che è sacro per noi e per contro quanto per noi è impuro, per loro è lecito. Nel consacrare nel tempio l'effigie di un asino, animale che li aveva liberati dalla peregrinazione nel deserto e dalla sete, uccisero in sacrificio un ariete come in oltraggio ad Ammone. Nei sacrifici uccidono anche il bue in spregio agli egizi che adorano api. Si astengono dalla carne di maiale in memoria di un'epidemia, il maiale è portatore di scabbia, che un tempo li aveva contagiati. Ancora oggi rievocano una lunga carestia del passato con frequenti digiuni. In ricordo di un furto di messi, il pane ebreo non ha lievito. Dicono che il settimo giorno fu votato al riposo, poiché quel giorno pose fine alle loro fatiche, ma poi, sedotti dal piacere dell'inerzia, consacrarono all'ozio anche un anno ogni 7. Questi riti, quale che ne sia l'origine, si giustificano per la loro antichità. Tutte le altre usanze sinistre e turpi si affermano invece per la loro malvagità. Infatti gli elementi peggiori, in spregio ai culti tradizionali, facevano allora incetta di offerte e tributi, grazie ai quali aumentò la ricchezza degli ebrei, anche perché tra loro la fedeltà è costante e spontanea la solidarietà, ma odiano come nemici tutti gli altri. Si distinguono e si separano dagli altri, a tavola come a letto, e malgrado siano una razza incline più di ogni altra alla libidine, non si uniscono agli stranieri. Tra loro invece nulla è vietato. Istituirono la circoncisione dei genitali per marcare la loro diversità. Queste stesse pratiche adotta chi si converte alle loro usanze, ma la prima cosa di cui viene imbevuto è il disprezzo degli dèi, l'abiura della propria patria e lo spregio di genitori, figli, fratelli. Seppelliscono i morti, secondo l'uso egizio, e non li cremano. Con gli egizi condividono anche la cura delle salme, la concezione degli inferi, contraria invece la loro idea del cielo. Gli egizi infatti venerano quasi tutti gli animali e le loro immagini in forma umana. Gli ebrei invece concepiscono, e solo con la mente, un unico Dio. È empio raffigurare Dio a immagine dell'uomo e modellarne la forma con materia peritura. Questo Dio è l'Altissimo, eterno, immutabile e non si può rappresentare. Pertanto non vi sono statue nelle loro città e tantomeno nei templi. Non tributano ai re onori divini che ne venerano i nostri Cesari. Poiché peraltro i loro sacerdoti, cinti di edera, cantavano al suono di flauti e timpani, e visto che nel tempio si trovò un tralcio di vite in oro, alcuni pensarono che venerassero il padre Bacco che assoggettò l'Oriente. Quanto ai riti, tuttavia, non v'è alcuna somiglianza. Bacco istituì festività e riti gioiosi. Il culto degli ebrei è invece privo di ogni grazia e sfarzo. Giovane, epistole. Il governatore della Bitinia, Plinio il Giovane, scrive all'imperatore Traiano per ottenere consiglio sulla condotta da seguire nei confronti della nuova setta dei cristiani. Caio Plinio all'imperatore Traiano. È mia abitudine, o signore, rivolgermi a te sulle questioni in cui mi trovo in dubbio. Chi, infatti, potrebbe in modo migliore guidare la mia esitazione o istruire la mia incompetenza? Non ho mai partecipato ai processi contro i cristiani. Per questo non conosco cosa in genere sia sottoposto a inchiesta e sia punito e dentro quali limiti. Sono rimasto molto incerto se sia il caso di fare distinzioni in base all'età, oppure se anche i bambini più piccoli in nulla vadano distinti dagli adulti, se si debba perdonare chi si pente, oppure se a chi sia stato con sicurezza cristiano non valga a nulla aver rinunciato ad esserlo, se si debba punire il nome di cristiano di per sé, anche in assenza di colpe infamanti, o soltanto le infamie legate a quel nome. Per il momento, contro coloro che mi venivano denunciati come cristiani, mi sono regolato in questo modo. Ho chiesto loro se fossero cristiani. A coloro che confessavano, ho ripetuto la domanda una seconda e una terza volta, minacciando loro la pena capitale. Se insistevano, li ho mandati a morte. Non avevo dubbi, infatti, che a prescindere dall'oggetto della loro confessione si dovessero certamente punire la caparbietà e l'ostinazione inflessibile. Alcuni di quelli presi da un simile delirio li ho fatti trasferire a Roma perché cittadini romani. Presto, in seguito al crescere dell'inchiesta, aumentarono le denunce e si verificarono numerosi casi particolari. Fu pubblicato un elenco anonimo che conteneva i nomi di molte persone. Ho ritenuto di far rilasciare coloro che negavano di essere cristiani o di esserlo stati se, preceduti da me, invocavano gli dèi e con un sacrificio di incenso e di vino adoravano la tua immagine, che a questo scopo avevo fatto portare insieme alle statue degli dèi, e se, in aggiunta, maledicevano Cristo, atti ai quali i veri cristiani non possono essere costretti, a quanto si dice. Affermavano inoltre che tutta la loro colpa o errore si riduceva semplicemente all'abitudine di riunirsi in un giorno stabilito prima dell'alba, di intonare a strofe alternate un canto a Cristo come se fosse un Dio e di vincolarsi con un giuramento non a compiere qualche delitto, bensì a non commettere furti, rapine, adulteri, a non tradire la parola data, a non rifiutare di restituire, se richiesti, qualcosa ricevuto in custodia. Per questo ho rinviato l'inchiesta per consultarmi con te. Mi è sembrata infatti una questione che meritasse un tuo pronunciamento, anzitutto per il numero delle persone a rischio. Sono molti, infatti, e di ogni età, di ogni ordine e anche di entrambi i sessi ad essere messi in pericolo, e così sarà anche in futuro. E non solo le città, ma anche i villaggi e le campagne sono stati raggiunti dal contagio di questa superstizione, che però penso si possa arrestare e correggere. Da Agostino, Sermoni. Nell'omelia tenuta in un giorno di festa pagano, Agostino nasconde, dietro lo specchio della pietà cristiana nei confronti di persone bollate genericamente come folli e schiavi e dei vizi peggiori, il trionfalismo di chi si vede ormai maggioranza. Carissimi, giacché vi vediamo qui riuniti come per una ricorrenza particolare e raccolti in quest'ora e in questo luogo in numero maggiore del solito, vi esortiamo a perpetuare in voi il ricordo di quanto cantavate poco fa. Questo era il vostro canto. Salvaci, Signore Dio nostro, e radunaci separandoci dalle genti perché possiamo lodare il tuo santo nome. Ora, se la ricorrenza pagana che oggi si svolge con una letizia che è di questo mondo e della carne in mezzo al chiasso di canzoni quanto mai stupide e sconce per celebrare una festa che è falsa di per sé, se quanto oggi i pagani compiono non vi reca diletto, allora siete radunati e separati dalle genti. Adesso io sto parlando dei cristiani. Se credete a ciò cui credono i pagani, se sperate in ciò in cui sperano i pagani, se amate ciò che amano i pagani, allora vivete pure come i pagani, ma se credete in altro, sperate in altro, amate altro, allora vivete in altro modo e comprovate la distanza della vostra fede, speranza, carità con la distanza del modo di vivere. In cosa credono i pagani? chiamano dei quelli che l'Apostolo Paolo ci svela essere diversi. I sacrifici dei pagani, dice, sono sacrifici ai demoni e non a Dio. Non voglio che diventiate compagni dei demoni. Dunque il loro modo di vivere rende felici i loro dei. Ma colui che disse non voglio che diventiate compagni dei demoni ha voluto che ci separassimo da chi si serve e chi serve i demoni nella propria vita e nei propri costumi. Perché quei demoni gioiscono di canzoni vuote, gioiscono dello stupido chiasso, delle oscenità varie dei teatri, della follia del circo, della crudeltà dell'anfiteatro, delle accese lotte tra chi si mette a litigare, ad accapigliarsi sino a creare vere e proprie inimicizie, solo in nome di personaggi dall'effetto rovinoso, un mimo, un istrione, un'auriga, un gladiatore. Fratelli, se capite bene quanto state ascoltando, non dubito che proviate dolore per coloro che ancora sono prigionieri di quella follia. Provate dolore per loro perché anche voi, forse un tempo, eravate schiavi di una follia simile. E ora il vostro cuore è guarito, perché voi fate il paragone con la loro follia e ne provate pietà e insieme dolore, non però dolore e insieme disperazione. Se infatti è potuto succedere a te di non amare oggi quello che ieri amavi, può succedere anche a lui. Così prima o poi anche lui odierà l'iniquità e amerà la propria anima e ormai dentro la Chiesa proverà dolore insieme a te per altre persone e pregherà e digiunerà per loro. Benché infatti gli altri giorni i pagani siano presi da stupidi interessi, tuttavia soprattutto nelle loro feste una licenza ancora più grande nel compiere sciocchezze li incita ad un amore ancora più grande del mondo e alla rovina dei piaceri. Quando dunque i pagani compiono queste cose con più ardore, con più largo concorso di folla, se loro si incitano al male verso se stessi, allora voi siate incitati alla pietà verso di loro. Certo, vanno sempre commiserati finché sono pagani, finché inseguono le vanità, finché sono schiavi dei demoni, finché vogliono adorare ciò che loro hanno creato, dimenticando da chi sono stati creati, sono sempre da compiangere. Ma nel corso delle loro feste suscitano un dolore tutto nuovo. Quando li vedi perdersi in mezzo a stupidaggini di ogni sorta, ai piaceri della lussuria, alle ubriachezze smodate, al gioco d'azzardo, alle varie forme della loro follia, il loro agitarsi insolito crea in te un insolito dolore, se sei un cristiano, se provi pietà. Perché anche quando non eri ciò che sei, la Chiesa provava pietà di te, pur essendo ancora in minoranza. E ora che è diventata grande, non si deve provare un dolore ancora più grande per loro, che continuano ancora a essere duri di cuore, ad amare la vanità, a cercare la bugia? Comunque noi nei confronti di chi, già separato dal genere umano in ragione di non so che tenacissima pervicacia, è rimasto in minoranza, si deve un dolore più grande, perché più grande è la malattia che li fa vaneggiare. Ippolito. Ippolito, figlio di Teseo, corteggiato dalla matrigna Fedra, lancia la sua accusa contro le donne, malanno irrimediabile imposto dagli dèi. Ma Zeus, perché le donne? Perché darci questo male ingannevole e mostrarlo alla luce del sole? Se volevi spargere il seme della razza umana, non dovevi ricorrere alle donne, ma bastava che gli uomini nei tuoi templi versassero oro o ferro o qualche libra di bronzo. In cambio si poteva comprare il seme con cui fare i figli, seme adeguato al prezzo che ciascuno ti ha pagato. E poi starsene tranquilli in casa propria senza donne intorno. La donna è un gran malanno, si capisce subito. Il padre che l'ha generata, che l'ha nutrita, aggiunge in dote il suo denaro per mandarla in casa d'altri, per togliersi di torno quel malanno. E l'uomo che si è preso in casa propria questa creatura sciagurata, gode nell'applicare begli addobbi al suo idolo infame, si dà un gran da fare con gli abiti e rovina il patrimonio delle sue case. Meglio a chi tocca qualche nullità. Però si piazza in casa sua una donna talmente sciocca che non sa che farsene. Quella che la sa lunga, poi, la odio. Che Dio mi scampi dal trovarmi in casa una donna istruita più di quanto deve una donna. Perché è proprio in loro, nelle più sveglie, che scatena a Venere la voglia di far male. Se è una donna che non ci arriva, almeno è così stupida che evita le pazzie. Giovenale, satire, l'indignazione, tonalità dominante nelle satiri di Giovenale, trova un facile bersaglio nei Greculi, gli stranieri di lingua greca che dalle regioni orientali dell'impero confluiscono a Roma per fare fortuna. Ora dirò subito, senza riguardi, quale sia la gente più amata dai nostri ricchi e che io, più di ogni altra, evito. Non posso sopportare una Roma greca. E poi quanti sono in questa feccia i greci veri? Da tempo ormai il fiume della Siria, l'Oronte, si è riversato nel Tevere e ha portato con sé la lingua e le usanze di là. L'arpa con le corde oblique, il suonatore di flauto e poi i tamburelli esotici e le ragazze costrette a prostituirsi nei pressi del circo. Avanti! Se vi piace la puttana straniera col turbante colorato. Quirino, quel contadino della tua razza indossa scarpe greche, porta medagliette greche al collo unto da pomate greche. Uno lascia l'alta Sicione, l'altro Amidone, questo qui Andro, quello Samo, l'altro Trallio alla banda e vengono tutti all'assalto dell'Esquilino e del Colle che prende il nome dal Vimine, per diventare intimi delle grandi casate e, in futuro, padroni. Intelligenza sveglia, sfrontatezza senza vergogna, parola pronta, più travolgente di quella di Iseo. Dimmi chi è quello, secondo te. Ha pronto per noi, dentro di sé, chiunque tu voglia. Grammatico, retore, geometra, pittore, massaggiatore, indovino, medico, mago, un greco affamato sa fare tutto. Volerà in cielo se glielo ordini. In fin dei conti non era mauritano, sarmato o trace quello che si mise le ali, ma ateniese di Atene. E io non dovrei evitare la loro porpora greca? Firmerà prima di me. Si sdraierà su un letto migliore del mio, uno che è arrivato a Roma col vento che porta le prugne e i fichi secchi? Non conta proprio nulla aver respirato fin da bambini l'aria dell'Aventino. Esserci nutriti di olive sabine e poi gente abilissima nell'adulare elogiano le chiacchiere dell'ignorante, la bellezza dell'amico orrendo e paragonano il collo bislungo di un uomo fragile alla cervice di Ercole che tiene Anteo sollevato da terra. Ammirano una voce stridula. Peggio di così non strilla neppure il gallo quando copre la sua gallina. Anche noi possiamo elogiare le stesse cose, ma solo a loro si crede. E quale attore è meglio di un greco nel far la parte di Taide o di una moglie o di una Doride senza veli? Ma certo, sembra che parli proprio una donna, non un attore. Si direbbe che al di sotto della pancia non ci sia nulla, che tutto sia piatto, diviso da una stretta fessura. È tutto un popolo di commedianti. In più, niente è inviolabile, niente è al sicuro dalla loro libidine, né la madre di famiglia, né la figlia vergine e neppure il fidanzato, ancora senza barba, non il figlio, fino a quel momento innocente. In mancanza di meglio, stendono sul letto la nonna dell'amico. Da Cicerone, Filippiche. Nella seconda Filippica, Cicerone si scaglia contro Antonio in un'invettiva che mira a distruggere l'immagine pubblica di Antonio attraverso la condanna di certi aspetti della sua vita privata, i rovesci economici e soprattutto il comportamento sessuale. Vuoi che esaminiamo il tuo comportamento fin dall'infanzia? Penso di sì. Cominciamo pure dall'inizio. Ti ricordi che hai fatto bancarotta quando ancora portavi la toga pretesta? Tu dirai, ma questa è una colpa di mio padre. Lo ammetto. Davvero trabocca di devozione filiale la tua difesa. Comunque è tipico della tua arroganza l'esserti seduto nelle prime 14 file, mentre, secondo la legge Roscia, ai falliti spetta un posto ben preciso, anche quando si fallisca non per colpa propria, ma della mala sorte. Hai poi preso la toga virile, che subito hai reso una toga femminile. In primo luogo, facendo la puttana a disposizione di chiunque. Il prezzo della vergogna era fisso e per di più non era basso. Ma ben presto è arrivato Curione, che ti ha sottratto al mestiere di prostituta e, proprio come se ti avesse sposato, ti ha sistemato in un matrimonio stabile e sicuro. Nessuno schiavetto comprato per soddisfare le proprie voglie è mai stato tanto soggetto al padrone come lo sei stato tu a Curione. Quante volte suo padre ti ha buttato fuori da casa loro? Quante volte ha fatto sorvegliare la porta perché tu non la varcassi? Mentre tu, con la complicità della notte, spinto dallo sprone del desiderio, dal bisogno di guadagnare, ti calavi dal tetto. Quella famiglia non poté tollerare più a lungo scandali simili. Lo sai che sto parlando di cose di cui sono ben informato? Ricorda il periodo in cui il padre di Curione giaceva a letto addolorato. Suo figlio, gettandosi ai miei piedi in lacrime, si raccomandava a me. Supplicava che io assumessi la sua difesa contro suo padre nel caso gli chiedesse 6 milioni di sesterzi. Per una cifra del genere, diceva, si era fatto garante in tuo favore. E poi, bruciante d'amore, affermava che sarebbe andato in esilio perché non poteva sopportare il dolore di una separazione da te. In quel periodo, quali sofferenze di quella illustre famiglia ho alleviato, o meglio, eliminato? Convinsi il padre a pagare i debiti del figlio, a liberare dai suoi obblighi, con le risorse del patrimonio di famiglia, un ragazzo da cui per intelligenza e cuore ci si poteva aspettare moltissimo, e infine lo convinsi a proibirgli, facendo leva sui suoi diritti e sulla sua autorità di padre, non solo di essere tuo intimo amico, ma di avvicinarsi a te. Tu, ricordandoti del mio intervento, avresti forse osato sfidarmi con i tuoi insulti se tu non potessi contare sugli uomini armati di spada che vediamo qui? Ma ora lasciamo perdere le relazioni scandalose. Ci sono cose che io non riesco a dire senza vergognarmi. Tu invece le puoi raccontare più liberamente perché ti sei macchiato di azioni tali che un avversario fornito di pudore non potrebbe riferirle. Da Platone, politico. E che errore abbiamo commesso, secondo te, straniero, nelle nostre analisi concettuali? Lo stesso errore, Socrate, che si commette quando si tenta di dividere in due il genere umano, e lo si divide come fa la maggioranza della gente da queste parti. Da un lato si pone la razza ellenica, intesa come unità isolata dal resto. Dal lato opposto si pongono tutte le altre razze prese in un solo fascio, benché siano infinite e fra loro estranee e discordanti. E poiché si dà loro il nome unitario di barbari, si pensa, in virtù di questa stessa denominazione unitaria, che sia unitaria anche la loro razza. Da loro il nome unitario di barbari, si pensa, in virtù di questa stessa denominazione unitaria, che sia unitaria anche la loro razza.